24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:24 minuti riparte una settimana di 24 mattino, cari ascoltatori. Eccoci qua, siamo in diretta, siamo anche su Facebook, ci trovate 24 mattino. E di cosa parliamo nel nostro sondaggio che potete già votare su radio24.it nell'home page, il nostro bianco o nero? Parliamo di affittopoli a Milano, l'elenco delle persone che avevano affitti a canoni molto favorevoli in case pubbliche. Un elenco, secondo voi, che è necessario sapere, un elenco da pubblicare, questo vi chiediamo. Secondo voi è giusto rendere noti i nomi? Ne parleremo poi alle 8:30, votate su radio24.it. Ed ora i giornali. In primo piano. Lunedì 21 febbraio le aperture sono diverse con la scelta per il Corriere. Sarà un processo secondo giustizia. Sono le parole di Napolitano, che ha fatto un'intervista a un giornale tedesco. Berlusconi ha tutti i mezzi per difendersi nel processo, anche per la stampa. Vedete, l'interpretazione delle parole di Napolitano sono viste dal giornale così: il golpe è fallito, Napolitano infrange i sogni di Ribaltone, il governo va avanti finché ha la maggioranza in Parlamento, l'unità, il Colle dice basta con un semaforo rosso. Cioè la stessa intervista, due interpretazioni opposte. Repubblica punta sulla Libia, il massacro di Bengasi, l'esercito si schiera coi rivoltosi. Segnala anche l'apertura del Sole 24 Ore sulla borsa: in borsa tornano i dividendi, dalle blue chip di Piazza Affari attesi 15 miliardi più 10% rispetto al 2010, queste sono le previsioni positive grazie alla crescita degli utili per quel che riguarda la borsa. Ma voglio partire da una segnalazione, la trovate sul giornale, perché è l'emblema dell'Italia. Dell'Italia della burocrazia, dell'Italia dei labirinti di pratiche. Mattias Fender racconta, pagina 8, l'Italia che non funziona. Storie di ordinario delirio per tre tavolini al bar, mesi di pratiche e code. È la storia che viene da Perugia, raccontata su un giornale locale da Luigi Fressola, un architetto, al quale è stato dato l'incarico da un locale di mettere un piccolo dehors, tre seggioline fuori dal bar. Si inizia con la DIA, la dichiarazione di inizio attività, poi bisogna andare con le carte da bollo all'ASL perché manca l'autorizzazione per la somministrazione di cibo e bevande all'esterno, dall'ASL si viene mandati ai vigili urbani, dai vigili urbani poi interviene la sovrintendenza perché... perché quella zona è a sovrintendenza è a carattere archeologico, ma insomma, ma devo mettere solo tre seggioline sul marciapiede? Una serie di telefonate dietro l'altra tra i vari funzionari, burocrazia contrologica. Alla fine ci vogliono 6 mesi per ottenere la pratica, dopo la quarta telefonata al funzionario che deve mettere la pratica, che ogni telefonata dice oggi la firmo, il giorno dopo oggi la firmo, il terzo giorno oggi la firmo, finché l'architetto fa irruzione il 9 luglio scorso in comune, individua il funzionario, gli mette davanti la pratica, la firma e alla fine esce trionfante dal comune. Un'odissea di mesi per ottenere un piccolo dehors. La racconta il giornale per raccontare la palude quotidiana di un paese oppresso dalla burocrazia. È già tempo di fermarsi, la pubblicità, e poi ripartiamo dalla politica. In primo piano. Voglio iniziare dalla politica, anche se è un po' la solita solfa, cari ascoltatori, quella che trovate sui giornali, è la solita solfa. Si parla sempre della situazione giudiziaria che coinvolge il Presidente del Consiglio Berlusconi, di cambi di casacche in Parlamento, insomma sembra di vedere quel film che ogni giorno raccontava la stessa storia. E intanto Napolitano, il Presidente della Repubblica, alla vigilia di un viaggio in Germania, ha rilasciato un'intervista a Welt am Sonntag e ha parlato anche della situazione italiana e ha detto: non è piacevole certo vedere sui giornali italiani ogni giorno gli scandali politici, gli intrighi, troppo spesso si scelgono toni troppo clamorosi ed eccessivi, dice Napolitano. E riguardo alla situazione del Presidente del Consiglio, Vale a dire al processo del 6 aprile, penso che abbia le sue ragioni e buoni mezzi giuridici per difendersi contro le accuse. Sia la nostra Costituzione sia le nostre leggi garantiscono che un procedimento come questo, in cui si sollevano gravi accuse che il Presidente del Consiglio respinge, si svolgerà e concluderà secondo giustizia. Confido nel nostro Stato di diritto. Così Napolitano. Riguardo poi alla tenuta della maggioranza, credo che un governo regge finché dispone della maggioranza in Parlamento e opera di conseguenza. Questo Napolitano, mentre ieri Berlusconi nel ormai tradizionale della domenica messaggio al sito dei promotori della libertà ha parlato ancora di riforma della giustizia, una stretta sulle intercettazioni, chi passerà le intercettazioni ai giornali andrà in galera, questo ha detto nella riforma che si vuole fare, insomma si discute sempre di questi temi. Tra l'altro segnalo a pagina 2 del Corriere della Sera un'intervista all'ex legale di Berlusconi, è onorevole Pecorella. Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Inizia così, da questa citazione dantesca, Gaetano Pecorella, a dire le leggi, è vero, sono buone, ha detto, come ha detto Napolitano. Il problema è chi le applica. Insomma, il problema sempre la magistratura. Ripeto, la Costituzione e le leggi ci sono, ma sono come le grida di memoria manzoniana, dice Pecorella, che ripete questa frase. Già padre Dante sosteneva le leggi son, ma chi pon mano ad esse? E poi parla delle stranezze, le varie stranezze del processo in cui è appunto imputato Silvio Berlusconi. Tra l'altro processo che arriva a una svolta, nel senso che entro oggi pare che la difesa di Berlusconi dovrà decidere come muoversi, e secondo le anticipazioni del Corriere della Sera l'ipotesi è quella di utilizzare i legittimi impedimenti per bloccare due processi, la presunta corruzione dell'avvocato inglese Mills e la vicenda di Ruby, mentre l'idea è quella di lasciare andare avanti altri due processi, Mediaset e Mediathread, che sono quelli a rischio prescrizione. Legittimi impedimenti, cioè opporre, questa potrebbe essere la strategia dei legali del Premier, opporre dei legittimi impedimenti per degli impegni istituzionali, per le udienze per le quali è impegnato. Tra l'altro Ruby parla sempre a un giornale tedesco, alla Bild, cioè questa lo mette a pagina 5, sempre il Corriere della Sera, la ragazza marocchina, la Bild, su alcune cose ho esagerato molto, sotto pressione ho cambiato versione come spesso nella mia vita, dalla mia bocca è uscito per lo più quello che la gente voleva sentire, molto non aveva alcun senso, una bugia ha portato dietro altre bugie, ma allora ero ancora minorenne e non avevo ben compreso la serietà della situazione, tanto che il Corriere della Sera dice a che bugie si riferisce, insomma non si capisce più nulla. Bugie, per esempio, quando ha raccontato con dettagli particolareggiati di avere fatto sesso da minorenne con il celebre calciatore Cristiano Ronaldo, per cui da giorni il giornale si chiede come mai la Procura di Milano non indaga Cristiano Ronaldo. Pare che ora, però, dopo aver detto queste cose nello stesso interrogatorio, Ruby non sia riuscita a collocare temporalmente dove siano e quando siano avvenuti questi rapporti sessuali con Cristiano Ronaldo. Sta di fatto che, insomma, la situazione, per come è posta anche dai giornali e dai commentatori, è una situazione sempre più di scontro frontale. Ho scelto, per farvelo capire, due editoriali. Il primo è quello di Giuliano Ferrara, tradizionalmente sul Foglio. Giuliano Ferrara scrive: mi sono di nuovo innamorato di Berlusconi, sono preso da vero affetto, vera comprensione intellettuale e morale per tutti e per ciascuno dei suoi celebri difetti. Gli ho detto a un giornalista della Süddeutsche Zeitung che mi ha intervistato poco fa che forse il cavaliere è alla fine del ciclo, probabilmente, ma ci ha giocosamente cambiati, ci ha offerto la possibilità di farlo. I suoi nemici assoluti sono orrore puro quelli al comando di una folla italiana infeconda e triste, quelli che per strada invece di incitarmi, sono molti a farlo, mi tirano in faccia con brutalità la loro lagna su un paese da liberare, su un miserabile porco da mettere a rogo e altre stupide bassezze e codardie. Il Foglio è testimone delle mie reazioni altalenanti. E scrive Ferrara: ho cambiato ottica e prospettiva di fronte alla più canagliesca e torbida inquisizione, di fronte alla incapacità di capire come stanno le cose di quei giornali che sono letti alla luce dei lampioni che cercano il sole. Sono molto irritato con gli amici del New York Times, gli amici dell'Economist, con chiunque mostri di non sapere com'è fatta l'Italia. Davanti a questi tartufi e impostori malati di narcisismo tristo e di una religione civile cupa, senza Dio, senza Cristo, mi sento ormai invulnerabilmente berlusconiano. Mi sento legato al suo destino in assetto di obbedienza consapevole, come un gesuita dell'immoralismo e del suo papa. Insomma, questa è la dichiarazione d'amore spassionata di Giuliano Ferrara. Dall'altra parte, guardate, basta vedere l'Unità, uno apre l'Unità. E, beh, intanto bisogna trovarla, come al solito. Eccola qua, tra i vari giornali. Mi prendo in giro, sembra che io mi perda le cose apposta, ma sono qua tra 15 quotidiani. Vorrei vedere voi. Allora, l'Unità, come invece pone la questione Berlusconi, sempre per il secondo editoriale che ho scelto, che parte dall'intervista a Roberto Vecchioni, il vincitore del Festival di Sanremo, e dall'analisi alla domanda: ma chi è il bastardo che sta sempre al sole di cui Vecchioni canta? Beh, Vecchioni non risponde in realtà. Dice: non ce n'è uno solo, i bastardi al sole sono quelli che si nascondono, i grandi vecchi che stanno dietro a tirare i fili. Sì, sto pensando anche a quella persona, ma non solo, penso ai mafiosi, a molti grandi politici, ai grandi finanzieri, ai pesci grossi. È solo che l'Unità poi fa, con il condirettore Giovanni Maria Bello, a pagina 2, il tradizionale editoriale, a dire, insomma, a chi si riferiva Vecchioni quando ha detto penso anche a quella persona? So a chi stai pensando. Allora, chi è questo bastardo di cui parla Vecchioni, il bastardo che sta sempre sotto il sole? E beh, l'Unità fa un... Giovanni Maria Bello fa un lungo panegirico, dice, beh, insomma, tanto bastardo dallo Zingarelli è nato da genitori non legittimamente coniugati, questo etimologicamente, ma non si può pensare che Vecchioni, un poeta, un artista, abbia pensato a una cosa così etimologicamente corretta, ma poco sensata. Allora azzardiamo un'ipotesi, scrive Giovanni Maria Bello. In generale un bastardo ha qualche problema dell'individuazione dei fratelli, cioè del prossimo. Bastardo in sostanza nel senso di Caino, quello che uccide del proprio fratello, magari utilizzando milizie mercenarie straniere. Ecco, stava pensando a Gheddafi. Ebbene no, però questo porrebbe il rischio di una crisi internazionale ben più grave. E insomma, c'è una sola soluzione: riaccreditare la risposta sbagliata. Presidente Berlusconi, la preghiamo, si sacrifichi ancora una volta. Insomma, il bastardo è Berlusconi, il bastardo di Vecchioni. Questo per l'Unità. Intanto dicevamo, ci sono gente che va, gente che viene. Oh, Barbareschi pare definitivamente, il dado è tratto, lo fa con una serie di interviste, Corriere, Stampa, Repubblica, lascia i Finiani. Questa volta pare sia definitiva, l'avventura è fallita, il mio dissenso è cominciato con la guerra al ministro Bondi. Parla al Corriere, a Fabrizio Caccia, ha sentito Fini? No, l'ultima volta è stato quando mi ha dato del pagliaccio. E poi Barbareschi comunque dice: io non posso anche lasciare la politica da un giorno all'altro, posso vivere da un giorno all'altro, posso vivere anche di tante altre attività, eccetera. Segnalo Mario Aiello, notista della politica, sempre con la penna molto molto ironica, sul Messaggero, in prima pagina: i 120 fregoli lo faccio per lo zio prete, lo faccio perché Silvio è buono, lo faccio contro le veline, cioè raccoglie tutti coloro, e sono tanti, che hanno cambiato casacca in questo grand hotel Montecitorio, che vagano tra un gruppo e l'altro, entrano ed escono dai partiti. Mario Aiello, un'intera pagina, pagina 6, c'è chi ha detto, come Roberto Rosso, rientro nella maggioranza perché Berlusconi ha uno zio salesiano e io ho fatto i salesiani. Oppure Maria Grazia Siliquini: in un nanosecondo ho deciso di aderire a Future Libertà, poi il 14 dicembre nello stesso nanosecondo vado in bagno, mi guardo allo specchio e decido di tornare con Berlusconi. E poi c'è chi le dice: Fini è freddo e Silvio è buono, Di Pietro non mi risponde al telefono, Scilipoti, vi ricordate? Lago Puntura, no? Non mi dà retta sul Lago Puntura, Scilipoti. Guzzanti, che prima scrive Mignottocrazia ma ora appoggia Berlusconi: no, ma lo appoggio solo indirettamente. Oppure, beh, straordinario Moffa, sentite Mario Aiello che ricorda una dichiarazione di Moffa: noi dell'area della responsabilità siamo una grande forza che può dare una svolta al paese, qualcosa di estremamente serio, un coagulo politico e culturale che si è sedimentato nelle coscienze. Ho pietà di voi, il traffico. In primo piano. ci sono molti, ci sono alcuni quotidiani come La Repubblica che apre sulla situazione in Libia, la situazione è drammatica. Io cerco di vedere anche quello che succede dalle agenzie, poi seguirete tutta la giornata su Radio 24, per chi magari riesce ad avere anche i collegamenti con le TV internazionali. La CNN ha fatto sapere poco fa che non si riesce neanche più a collegare con Tripoli, la situazione è davvero drammatica. Si parla anche, si vocifera di una partenza nella notte di Gheddafi, che avrebbe già lasciato il paese lasciando ai figli un po' il potere. Intanto ci sono tanti articoli, ma è difficile sapere davvero cosa succede. Quello che c'è di certo è che Gheddafi, o chi detiene il potere in questo momento, i Gheddafi, diciamo così, in Libia, hanno giocato subito la carta, voilà, del ricattone. Il Rais gioca la carta immigrati, Europa attenta o salta l'accordo. Cioè, attenzione, perché o stiamo noi al potere e riusciamo a reprimere questa rivolta, questa ribellione, oppure vi inondiamo di immigrati. Parliamoci chiaro, questo è il ricatto, non tiene più l'accordo con l'Europa e dunque c'è il rischio di nuova invasione. Secondo altro ricattone che ha tenuto in ballo e che ha tirato in ballo i Gheddafi è quello dell'utilizzo o della presenza di sabotatori e incursori stranieri del Medio Oriente in Africa. In pratica, attenzione, c'è il terrorismo fondamentalista islamico alle porte. Insomma, sono ricatti oppure sono minacce serie con cui fare i conti? Sta di fatto che ci siano degli stranieri, questo lo testimonia per esempio anche il Secolo XIX, che si concentra a pagina 4 su un video che circola, cioè ma stranieri che sarebbero stati chiamati dallo stesso Gheddafi, mercenari pronti a sparare sulla folla, gli ufficiali ci ordinano di massacrare i manifestanti, è stato arrestato questa persona e c'è sul web un video che circola, un mercenario straniero catturato dalla folla che dice ho ordini di uccidere da parte degli ufficiali libici, è una persona che non parla neanche arabo. Vi hanno detto di sparare contro la gente? E lui dice sì, parla male arabo, c'è anche chi vuole linciarlo, ma poi alcuni nella folla dice no, non fate così, facciamolo parlare, non facciamo come loro. C'è anche l'unica, una delle rarissime testimonianze, la propone a pagina 3 La Stampa, Giacomo Galeazzi riesce a raggiungere il vescovo di Tripoli, Giovanni Martinelli, che viene raggiunto negli edifici sacri di Bengasi, dice si sono già rifugiati migliaia di immigrati cristiani, soprattutto filippini, non li abbandoneremo, parla di una situazione con i giovani esasperati, mancano case, manca il lavoro e di un massacro in vero in atto, anche il sangue versato rende difficile far ritrovare serenità, le autorità possono ancora mostrare buona volontà di fronte alle rivendicazioni. Alla domanda di Giacomo Galeazzi, in Libia finirà come in Egitto? Risponde il vescovo di Tripoli, i libici sono un popolo pacifico, ma qui tanti giovani sono esasperati, vedono il benessere intorno, si aspettano che il governo accetti un confronto. Insomma, trovate molti, molti articoli su questo, come trovate molto anche il tema del nostro sondaggio. È scoppiata Affittopoli, è già stata ribattezzata così come la più celebre Affittopoli di 20 anni fa circa, Affittopoli a Milano, con la lista di una serie di immobili proprietà del Pio Albergo Trivulzio, un istituto pubblico storico a Milano, che sono stati assegnati negli anni o con affitti, e alcune immobili sono stati venduti e oggi si scoprirà la lista degli immobili venduti, però in questa lista ci sono molti o politici, ci sono anche giornalisti, imprenditori, insomma gente della Milano che conta insieme a tante persone normali. Ora queste persone dicono non è una colpa essere in questa lista, abbiamo vinto un bando pubblico, sta di fatto che ci sono anche persone che pagano degli affitti stracciati, non a prezzi di mercato. C'è anche, ed è oggi che parla per la prima volta in due interviste al Corriere della Repubblica, c'è anche la compagna, è una giornalista, Cinzia Sasso di Repubblica, la compagna del candidato sindaco per il centro-sinistra a Milano, Giuliano Pisapia. La sua compagna vive appunto in una di queste case. Forse ho commesso una leggerezza, ma tutelo i miei affetti. Così parla il Corriere della Sera Giuliano Pisapia. Anche a Repubblica, su quella casa c'è stata leggerezza, ma vado avanti finché la gente mi sostiene. mi sento amareggiato, leggerezza forse c'è stata, è stata quella di non aver chiarito velocemente alcune questioni, ma insomma Pisapia ha parlato di fango gettato su di lui in passato, da alcuni giornali, non in passato, nei giorni scorsi, e un fango che ribadisce, poi ricostruisce tutta la vicenda. Comunque ne parleremo alle 8.30, vi chiediamo, secondo voi è giusto sapere tutti questi nomi, rendere noti i nomi delle persone che sono affittuari o che hanno comprato immobili dal Pio Albergo Trivulzio. Cito dal Sole 24 Ore invece un'interessante inchiesta che riguarda le separazioni e i matrimoni, quindi la fine dei matrimoni. 4 separazioni ogni 10 matrimoni. Oggi a pagina 8 trovate questa inchiesta, dove ci si separa di più. Intanto la statistica porta a dire che sono sempre di più i matrimoni che naufragano. 4 su 10 ormai, scrivono Andrea Maria Candidi e Giovanni Parente. E dov'è il record? Il record è in Liguria, dove 514 matrimoni su 1000, dunque più della metà, vanno a finire con una separazione. In Friuli Venezia Giulia esattamente 500 su 1000, esattamente il 50%. 4 separazioni ogni 10 matrimoni, le coppie più resistenti sono invece in Calabria. In Calabria invece finiscono, o meglio vanno alla separazione, solo 174 matrimoni su 1000, il 17,4%. Che devo dire, c'è ancora Erika di Erika e Omare, bene sì, che è la prima pagina del quotidiano nazionale, si concentra su quello di cui dicevamo la settimana scorsa. Erika è tornata, l'anno prossimo sarà libera, l'autrice del massacro di Novi Ligure insieme a Omar, che è già libero. C'è anche un'intervista alla suora, madre Mirella, che la segue, dice ora è una detenuta modello ma un po' indecifrabile. E che dire, devo chiudere con lo sport? Ma sì, oggi possiamo chiudere con lo sport. Peter già ride. Milan pepato, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, col Milan che vince, il Napoli anche vince, e tra l'altro la prossima partita è proprio Milan-Napoli. Che dice Peter? No, che c'è stato un gol di mano, pare. Dice di sì, c'è stato un gol di mano, non so di chi. Però Gene Gnocchi, corrompi pallone, Robinho parla del gol contestato. Ma che prova TV, dai, il canestro era regolare. Ci fermiamo per il GR 24 mattino. L'intervista. Eccoci qui alle 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Che tra l'altro è in giro con il suo libro fuori, sta facendo molti incontri. Senta Renzi, le chiedo innanzitutto, lei dice sempre il PD non insegue Berlusconi. Che dovrebbe fare allora questo PD? Ma il PD dovrebbe prendere atto che in questi mesi il governo si è arenato, si è messo a litigare, si sono becchettati, come si dice a Firenze, praticamente su tutto. E allora il modo per tornare ad essere credibili davanti agli italiani è quello non di contestare ciò che fanno i nostri avversari, mi pare facciano abbastanza bene da solo a far vedere che non funzionano le cose, ma tentare di essere credibili con una proposta alternativa su tutti i temi di discussione, dall'università alla cultura, alla scuola, alla riforma economica. Non si può continuare a dire che siamo contenti che il nostro paese non ha fatto la fine della Grecia. Insomma, se vogliamo crescere e invertire la marcia, dobbiamo anche avere qualche ambizione un pochino più alta che la parità ellenica, che fare allo stesso modo di quanto ha fatto l'America. Ma non dovrebbe partire per esempio anche dall'indicare un leader? Si dice il leader è Bersani, poi c'è tutta la polemica, Rosi Bindi, lei ha detto no Rosi Bindi ha detto Renzi voterebbe solo se stesso. No, guarda, andiamo con ordine. Io credo che sia sbagliato la discussione sui nomi. Noi, è come se noi avessimo una macchina, non sapessimo dove voler andare, con chi farci salire a bordo, e ci mettessimo soltanto a discutere guido io o no guidi tu. E dal mio punto di vista mi stupisce quello che dice Rosi Bindi, nel senso che a mio giudizio, poi può darsi che sbagli, ma ci chiamiamo Partito Democratico, viva Dio, si potrà parlare, se è vero che siamo un partito, ma se siamo anche democratici, o perlomeno che dovremmo esserlo. Io ho detto la mia, ho detto che Rosi Bindi, che ha già fatto 6 mandati tra Parlamento Europeo e Parlamento Italiano e si accinge al 7°, che è entrato al Parlamento Europeo prima della caduta del muro di Berlino, che ha già corso, ha fatto il ministro 2 volte, che ha già corso alle primarie perdendole contro Veltroni, non non mi sembra quell'elemento di innovazione, di rinnovamento di cui abbiamo bisogno. Aggiungo, la Bindi forse, come dire, non è riuscita a vincere le primarie l'ultima volta. Io vorrei una sinistra capace di vincere le elezioni, perché altrimenti noi continuiamo a lamentarci di Berlusconi, ma per mandare a casa Berlusconi non c'è che una strada, che è quella di sconfiggerlo alle elezioni. E siccome i risultati del governo non sono brillanti, non sono all'altezza delle aspettative di chi nel 2008 ha votato il centrodestra, bisognerebbe andare a recuperare una parte di quei voti. E si dice, si batte le elezioni, insomma, questa vicenda di Rubi l'ha un po' stancata, no? Lei quando apre i giornali che pensa, anche oggi? Ma insomma, io penso quando apro i giornali, che mi fa piacere, per modo di dire, piacere che almeno oggi le prime pagine siano dedicate ai veri problemi. Quello che sta accadendo in Libia è sinceramente drammatico e sconvolgente. Cioè, noi in questi mesi in cui noi siamo stati dietro la nipote di Mubarak, non soltanto ha avuto dei problemi lo zio, cioè il Mubarak vero, ma un po' tutti i paesi sopra il Sahara hanno conosciuto quello che qualche commentatore ha giustamente, secondo me, definito una sorta di 1989 dei paesi del Mediterraneo. La Tunisia, l'Egitto, adesso la Libia. Nessuno parla di ciò che sta avvenendo in Iran, anche perché non riusciamo ad avere informazioni sufficienti. Forse la vera... Si dovrebbe parlare più di quello, dice. Si dovrebbe parlare più di quello. Credo che per chi fa politica questi siano fenomeni sconvolgenti ed epocali. Ma voglio dire, ma mi scusi, non la sconvolge se un falco, giudicato falco, non si offenderà, ci ascolta sempre il nostro amico, come Stracquadagno nel PDL dice Bersani dia retta a Renzi invece che... Cioè lei è citato come quello che fa l'occhiolino al nemico. No, vedendo quello che Stracquadagno ha detto in passato a proposito delle donne mi prende un po' male, perché... Stracquadagno ha detto delle cose sulle donne che sono l'esatto opposto di ciò che penso io. Io ho una giunta di metà donne e metà uomini, ho un'idea della concezione della donna totalmente diversa da quella dell'onorevole Stracquadagno, per come almeno lui la pose. Non ho il piacere di conoscerlo e quindi mi limito a commentare le sue dichiarazioni giudicandole assurde da quello che lesse sui giornali. Detto questo, io non credo che se fossi un elettore o un parlamentare del centrodestra non mi preoccuperei di mettere il naso dalla parte nostra. Mi spiego. Per anni loro hanno sempre tenuto unito il loro partito. Ora sono arrivati al governo e hanno fatto peggio dell'Unione in termini di divisione. Si dividono, si litigano, va di qua, flip-flop. Cioè, è una situazione veramente devastante dal punto di vista anche del messaggio esterno. Però noi della sinistra non possiamo semplicemente pensare che vinceremo le elezioni aspettando che gli altri continuino a litigare e che magari arrivi una sentenza o qualcosa del genere. Noi possiamo vincere le elezioni se andiamo dagli italiani a dire: ragazzi, abbiamo capito la lezione. L'altra volta quando abbiamo vinto ci siamo divisi dal secondo giorno e questo è stato insomma, un errore. Fare un progetto. Fare un progetto. Cose concrete, però concrete. E sarebbe bello che su questo tema della concretezza ci fosse anche un ragionamento ideale di valori. Io credo che la sicurezza delle nostre città, penso alla sicurezza non solo notturna, si garantisca di più con un investimento in cultura, in illuminazioni diverse, in presenza diversa delle della vita di tutti i giorni. Insomma, un progetto più globale. Io sindaco però la devo salutare, le chiedo solo questo, perché oggi il Corriere dice ancora che lei è pronto al grande salto. Lei continua a dire fare il mestiere di sindaco di Firenze è il mestiere più bello del mondo, ma la danno come? Prossimo, insomma, si butta nell'agone politico nazionale, sì o no? No, io oggi mi butto nell'agone del nuovo teatro del Maggio fiorentino, vado a fare il cantiere, il sopralluogo, vado a fare le cose belle di un amministratore. Però agli amministratori sia riconosciuto, siccome non facciamo gli amministratori di un condominio ma di una città, si è riconosciuto il diritto di intervenire sulle questioni politiche. E siccome oggi l'Italia, vista anche dalle città, preoccupa, fateci dire che abbiamo bisogno di una classe dirigente. No, le è riconosciuto. La ringrazio, sindaco. Buona giornata. Buona giornata. Matteo Renzi, sindaco di Firenze, del Partito Democratico. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi ripartiamo al nostro sondaggio. Parliamo di quella che è già stata definita Affittopoli a Milano. Politici, giornalisti, personaggi più o meno famosi in lista o affittuari, oppure alcuni hanno comprato, e lo scopriremo nei prossimi giorni, case del patrimonio del Pio Albergo Trivulzi, istituto pubblico. La lista è stata resa nota, ne parleremo tra poco. Secondo voi è giusto rendere noti questi nomi? Questo ci chiediamo. Votate su radio24.it oppure 800 24 0024 se volete intervenire in diretta tra poco. 24 mattino. Eccoci qua, le 8:34 minuti, parliamo allora di quella che è già stata ribattezzata Affittopoli a Milano nel nostro sondaggio. Io sono o blanco o negro, gris non voglio essere in mia vita. bianco o nero? Politici, giornalisti, gente famosa, imprenditori, tutti tra i beneficiari di una lista che è stata resa nota dopo un lungo contenzioso nei giorni scorsi, una lista di persone che sono beneficiari affittuarie del patrimonio immobiliare del Pio Albergo Trivulzio, istituto storico a Milano. E, per carità, essere in questa lista non è una colpa, questo va detto subito. Quello che vi chiediamo oggi è il tema nel nostro sondaggio: è giusto secondo voi rendere noto nel nome della trasparenza tutti coloro che sono in questa lista, persone che spesso godono di un canone agevolato, canone non a prezzi di mercato? Ieri leggevo i titoli di Libero, del Giornale: rubano le case ai bisognosi, rubano le case ai vecchietti, ecco, questo è il clima. Intanto io voglio salutare qui in studio con noi Barbara Ciabò, che è consigliere comunale, presidente della commissione Case e Demanio del Comune di Milano di Future Libertà. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti voi. Si è battuta e si batte ancora per da mesi per rendere nota questa lista con un contenzioso col Pio Albergo Trivulzio. Saluto anche Gian Giacomo Schiavi, vice direttore del Corriere della Sera. Buongiorno Gian Giacomo e benvenuto. Buongiorno a tutti. Così come Luciano Buonocore, che è presidente del Consiglio Comunale di Peschiera Borromeo del PDL, anche cofondatore del PDL. Buongiorno Buonocore. Buongiorno a tutti, buongiorno a Gian Giacomo Schiavi e alla Ciabò. L'abbiamo chiamata perché lei, diciamolo subito, è uno di quelli in lista, no? Così. Beh, certo. Allora, intanto, Barbara Ciabò, io le volevo chiedere questo: oggi verranno rese note altre liste, credo, di persone che hanno acquistato la casa dal Pio Albergo Trivulzio. Ne scopriremo di nuove, ne scopriremo delle belle. Che ne pensa di tutto quello che si legge sui giornali di questa campagna Affittopoli? Ma dunque, diciamo che queste liste che verranno rese note oggi avrebbero dovuto essere rese note già da un po' di tempo. Noi veramente un po' di tempo. Io adesso non voglio, guardi, criminalizzare i vertici del Pio Albergo Trivulzio. Però sicuramente l'atteggiamento che è stato tenuto dal Consiglio di Amministrazione del Pio Albergo Trivulzio è stato un atteggiamento poco corretto, perlomeno poco corretto, perché abbiamo chiesto da tempo veramente di avere l'elenco di tutte le unità immobiliari e c'è stato, dopo parecchio tempo, insomma dopo aver aspettato e aver invitato i vertici in commissione, più volte abbiamo avuto come risposta la presentazione di questo elenco non al comune ma alla regione. La regione ha respinto l'elenco e solo a quel punto noi siamo riusciti ad avere il materiale che era stato richiesto. Diciamo, da parte. Un atteggiamento francamente incomprensibile, e questo atteggiamento anche ha sollevato qualche dubbio anche sulla gestione poco trasparente di questi immobili. L'elenco che è stato consegnato peraltro non era completo, mancavano molte unità immobiliari. Vorremmo capire a questo punto che fine hanno fatto, se sono state vendute, a chi, e oggi dovremo finalmente conoscere, scoprire qualcosa anche questa di più. Parte sì. Tra l'altro Luciano Buonocore, lei è uno di quelli in lista, cioè ci faccia capire essere in lista non è una colpa, però lei in lista con che metratura? Facciamoci un po' i fatti. Guarda, suoi, no? Volevo dire, tra l'altro, approfittare di questo, perché giustamente la Ciabò dice che lei si è battuta, lei è presidente della commissione, sì. Ma mi sembra che però chi ha fatto la campagna perché queste liste fossero poi rese pubbliche è stato Libero, no? Sì, come quotidiano, sì, sì, esatto, Libero. Come Libero ripete, e Libero dice: abbiamo tolto ai poveri per dare ai ricchi, giusto? Sì, sì, questo lo dice è anche il giornale. Vabbè, e quindi? E quindi se togliamo ai poveri per dare ai ricchi vuol dire che qualcuno l'ha fatto, e chi l'ha fatto è l'Albergo Trivulzio, giusto? Di conseguenza dovrebbero chiedere le dimissioni di questi qua. Ma qualcuno l'ha chiesto, guardi, il presidente del Pio Albergo Trivulzio. No, poiché l'amministrazione del patto è stata eletta e nominata, sì, dall'amministrazione del PDL e dalla Lega, dovrebbero chiedere. Però beh, questo è l'aspetto politico. Prima veniamo alla sua situazione. Cioè, no, lei è in affitto. Diciamo di chi praticamente ha dato le case. Va bene. No? Esatto. Lei è in affitto in una di queste case. Cioè... Esatto. Allora, poi un'altra cosa che volevo dire, che non c'è niente di male, certo, pubblicare, perché questo io sono per la trasparenza. Però si dà il caso che qui c'è un'istigazione alla violenza, perché ieri pomeriggio, sotto casa nostra, sono venuti quelli dei centri sociali a intimidire, no? Non so se lei lo sa. Sì, è uscito sui giornali. No? E mi sembra un po' un'istigazione alla violenza. Questo è il coso. Voglio dire che il mio caso rientra in un caso del tutto speciale rispetto a tutte le altre case che sono state pubblicate, perché la mia casa è una casa popolare di 150 anni fa, ad affitto convenzionato, tra il comune e il SUNIA, che non è un sindacato di destra ma è il sindacato della CGIL, il quale ha stabilito i parametri dei canoni in base alla tipologia del locale. Vabbè, cioè, fatiscente, senza ascensore. No, ma nessuno. Ma infatti dice: cioè, io, lei dice: io se sono in questa casa, questo canone, perché è stato tutto stabilito secondo dei contratti che sono stati fatti. Che non l'ho avuto dal PDL. Perché l'ho avuto nel 1989, quando la giunta era di sinistra, io ero senza casa perché ero separato. E ho preso semplicemente due locali. Non so perché la Ciabò rideva, non so, accusazione. Io rido perché Bonocore, se l'immobile era così fatiscente, potevi cambiarlo e no, perché non altro. Avevo casa, cara Ciabò, io sono l'unico, che tu sai benissimo, che dal PDL, dall'MSI e di AN non ho mai avuto niente. Non penso che tu sia l'unico, Bonocore, voglio dire, se stai lì qualcuno... Lì dove? Io non prendo stipendi da nessuno. Non entriamo in una cosa personale, tra l'altro. Non è personale, perché la Ciabò qualche anno fa aveva fatto un bel manifesto insieme alla Santanchè che diceva: attenti a quei tre, erano Berlusconi, Fini e Veltroni. Guarda, che Bonocore, mi sa che tu ti sbagli. Ti sbagli veramente, perché l'ha pubblicata anche il Corriere. No, se no usciamo un po' dal seminato, come si suol dire. Però non ha mai avuto i privilegi. No, ma intanto Bonocore, io intanto la devo... Non entriamo nel privato, perché sennò veramente Tra l'altro devo ringraziare Bonocore perché è qui, perché abbiamo contattato altre persone che hanno preferito non intervenire. Proprio, ripeto, non è una colpa essere in quella lista. Abbiamo visto anche delle persone, c'è Carla Fracci in una lista che spende, non so, 45.000 euro all'anno, però in via della Spiga, vi assicuro, se non siete di Milano, via della Spiga, insomma, è il centro, il cuore, più cuore di Milano non si può. Gian Giacomo Schiavi, io vorrei, vice direttore del Corriere della Sera, parliamo anche dell'aspetto politico, perché c'è la vicenda che coinvolge Giuliano Pisapia, il candidato a sindaco per il centro-sinistra, la cui compagna Cinzia Sasso è una collega di Repubblica, vive da anni in una di queste case, da 2 anni per la verità no, ma per tanti anni ci ha vissuto. Oggi Pisapia fa un paio di interviste dicendo forse è stata commessa una leggerezza nel non parlare subito. C'è da chiedersi come interpretare questa lista, cioè è una lista, è un atto di violenza, dice anche Bonocore, con quelli che vanno a manifestare sotto casa, e poi ci saranno ripercussioni politiche per il candidato Pisapia? Allora, diciamo subito che la vicenda in sé per sé è una piccola vicenda di opacità di gestione di questa famigerata e famosa lista. Barbara Ciabò ha fatto benissimo a fare la sua battaglia per chiedere la trasparenza e la pubblicazione di questi dati. La lunga attesa e l'iter attraverso cui si è arrivati a conoscere la lista ha alimentato il sospetto che ci fossero dei favoritismi, che ci fossero delle vicende poco chiare, che ci fossero dei privilegi concessi alla nomenclatura politica, alla cosiddetta, quando la chiamiamo, alla casta. In realtà poi è emerso ed è affiorato pubblicando questi dati che non c'erano cose strabilianti, non c'erano situazioni, diciamo così, clamorose, come potevano esserci state e come c'erano state 20 anni fa, quando la gestione delle case era in mano all'ex presidente del Pio Albergo Trivulzio, Mario Chiesa. Allora sì che spesso questi appartamenti venivano dati ad affitti assolutamente di favore e in cambio, diciamo così, di un atteggiamento particolare nei confronti di quei personaggi della politica. Ecco, Il caso Pisapia è un caso di leggerezza, come abbiamo scritto e come ha ammesso lui stesso nell'intervista al Corriere della Sera oggi, un caso di leggerezza proprio perché chi si candida a un incarico pubblico e chi si candida soprattutto al ruolo di sindaco non deve avere scheletri negli armadi e non deve avere assolutamente anche lui piccoli o presunti privilegi. E in questo lui è stato un po' ingenuo quando ha parlato inizialmente di macchina del fango contro di lui, perché in realtà nessuno ha, ha cercato, diciamo così, di criminalizzare il suo ruolo. No, diciamo come ha detto prima Bonocore, in realtà anche lui è lambito ed è toccato, non lui personalmente ma la sua compagna, e la giustificazione data all'inizio è stata una giustificazione modesta, non in grado di sciogliere dei dubbi che anche qualcuno vicino a lui avesse beneficiato, diciamo così. Sì, ha parlato subito di campagna di fango, diciamo, però in realtà insomma è stata data una notizia, dopodiché però siamo anche in tempi in cui del fango un po' viaggia, no, sui giornali, quindi magari è stato preso un timore preventivo. In questo caso è meglio ammettere subito le cose, sì, parlare di sincerità, dire io ho partecipato a questa lista, ci sono probabilmente molti cittadini che avrebbero voluto sapere che c'erano le case e magari non l'hanno saputo, qualcuno che ne ha, dico approfittato, ma ha avuto, diciamo così, il contatto per partecipare a queste aste. Io penso che il problema di fondo sia proprio la massima trasparenza della gestione di queste case. Nessuno ruba le case ai vecchietti, le case devono essere date in affitto perché questo patrimonio deve questo essere sicuramente però devono essere date in affitto, deve rendere all'ente, deve dargli la possibilità probabilmente di evitare all'ente di ricorrere all'aumento delle rette. Questo sì, devo dare le informazioni sul traffico, poi voglio ripartire da Barbara Ciabò con quello che ha detto Buonocore, cioè che queste liste, il rendere noto queste liste, ha portato anche a delle manifestazioni, persone che sono andate sotto casa a protestare, stando al fatto che essere in questa lista non è di per sé assolutamente una colpa. Ma vogliamo ripartire proprio da questo, anche dal risentimento di una parte della popolazione che si sente, e chiederò se legittimamente o no, defraudata di qualche cosa da parte di qualcuno più potente. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, detto che, ma era abbastanza presumibile, il 93% dei nostri ascoltatori nel sondaggio dice sì, è giusto rendere noti questi nomi. Barbara Ciabò, le chiedo, Buonocore dice, insomma, sono arrivate a manifestare alcuni dei centri sociali, cioè queste liste rese note così rischiano di buttare nel calderone anche dare delle impressioni a delle persone comuni di dire andiamo lì, ci rubano la casa, non è proprio così. Sì, brevissimamente, però perdonatemi, ma voglio un attimo rientrare, io non sento bene con le cuffie, per cui ho rientro della mia voce. Comunque, Buonocore prima mi ha accusata però di aver fatto dei manifesti con la Santanchè. Io devo dirle che non ho mai preparato manifesti, ho militato qualche mese con la destra quando Santanchè e Storace teorizzavano la posizione orizzontale come unica posizione possibile per le donne che volessero fare politica nel PDL, quindi era, diciamo, un'altra era un po' per tutti, però questa cosa io la volevo un attimo precisare. Qua stiamo parlando di case che appartengono a un ente che dovrebbe occuparsi dei più bisognosi. Stiamo parlando di case che dovrebbero essere valorizzate per l'ottimizzazione del servizio. Stiamo parlando di case i cui canoni sono più bassi a volte dei canoni che noi abbiamo previsto per gli inquilini delle case popolari, che il Comune di Milano ha adeguato perché non ci sono fondi a sufficienza per manutenere le case popolari. È questa la questione veramente grave. Che siano perdere andati, cioè, non i nomi. È bisognoso. Lasciamo perdere i nomi. A me dei nomi francamente non interessa. Però un minimo di trasparenza va fatta. Avevamo chiesto peraltro innanzitutto di avere i canoni precisi. Stiamo parlando di case che probabilmente sono state vendute a dei prezzi molto più bassi dei prezzi di mercato. E queste vendite avrebbero dovuto aiutare i bilanci del Pio Albergo Trivulzio, che sono quasi penosi. Quindi capite che qua non è una questione semplicemente di nomi o di gossip. Qua è una questione seria di un'amministrazione del comune di Milano che dovrebbe essere molto più attenta al patrimonio immobiliare e alla sua valorizzazione. Però su questo, Buonocore, lei ci ha detto, mi pare di aver capito, lei uso questa parola, cioè si sente bisognoso, cioè nel senso di avere diritto a questa casa in quanto bisognoso. Sì, allora prima di tutto io premetto che non ho proprietà e non ho redditi che mi vengono cioè non sono un parlamentare che piglia 10 milioni al mese eccetera. Anche 10.000 euro che quindi fanno 20.000 euro eccetera, no? Prima di tutto, no? E quindi questa è una cosa che secondo me è molto importante, perché poi risale a 20 anni fa, 22 anni fa, no? Però io volevo dire, la Chabot ha perfettamente ragione quando dice che bisogna accertare le vendite, però il caso di Via Moscova 25, dove c'è solo un politico che sono io, perché i politici, quelli che contavano, non vanno in Via Moscova 25 senza ascensore, quattro viene a piedi, casa disastrata, è tutta gente che sta lì da 100 anni. E quindi fare questa campagna significa espellere la popolazione, diciamo, che ci vive lì, perché queste sono case che Milano erano fatte proprio per creare la mescolanza sociale, no? Sì, perché sì. Questo era lo scopo del Trivulzio. Però io mi domando alla Chabot, e se mi permette domando anche a Schiavi, no? Che è un amico, sì, che conosciamo da anni. Allora, non so se Schiavi si ricorda, ma a me sembra che quando ci fu il caso Chiesa, l'elenco del Trivulzio fu segretato, quindi non fu reso noto, no? Mi sembra, può darsi che mi sbaglio. Bisognava farlo anche stavolta. Ma allora fu segregato, perché si ricorda che ci fu uno scherzo. Tutti gli enti pubblicarono, eccetto il Trivulzio, perché fu segretato, primo. È una cosa curiosa. E ancora adesso alcune case sono state segretate, ma oggi forse escono. Speriamo. L'altra cosa che chiederei alla Chabot, lei è presidente della commissione, credo che le faccia piacere quelle che le dicono. Le risulta che al Demanio di Milano esiste un armadio che si chiama LD, e dove questo armadio, che contiene decine e decine di documenti riguardanti immobili, il comune, per questo armadio di che nessuno può vedere, il comune perde 2 miliardi all'anno. Che fa l'armadio dei segreti? Che c'è? Bravo. Adesso visto che voglio dire, io presidente Chabot, esatto. Vada a vedere scusa, ma io non ce l'ho con te. Questa cosa è molto interessante, perché io adesso l'ha scritto, sai chi, scusami, chiedi a Schiavi, l'ha scritto il Corriere della Sera. Schiavi, non lo so, Schiavi che è qua, vice direttore. Io devo dire che dal 2007 che porto avanti questa opera di trasparenza, e lo devo dire che faccio abbastanza in solitudine, però vado avanti, perché noi donne siamo un po' così, no? Siamo un po' caparme quando vogliamo raggiungere un obiettivo, di solito piano piano ce la facciamo. E rispetto al patrimonio immobiliare del Comune di Milano mi sembra aver fatto abbastanza, e ultimamente quando l'abbiamo ricontrollato abbiamo visto che tutti i contratti scaduti sono stati rinnovati a un prezzo di mercato, quindi a un canone molto più elevato, e questo appunto per una valorizzazione migliore del patrimonio. Dell'esistenza di questo armadio non mi risulta, no. Però adesso chiederò immediatamente al direttore del settore se mi dà ulteriori informazioni. Gian Giacomo Schiavi, io devo chiudere perché ho un minuto. Allora, le cose sono di questo armadio LD, e poi la mia considerazione è questa: la gente è arrabbiata perché gli hanno toccato in vari modi la casa, cioè della casa non puoi parlare agli italiani, non puoi fare queste cose sulla casa, o mi sbaglio, Gian Giacomo? Ma certo, ma il compito dei giornali è chiedere, e qui bisogna chiedere i criteri di assegnazione, quali sono stati, le cifre pagate sono in regola, diciamo così, con i prezzi medi di mercato, le vendite di favore e non le svendite, la valorizzazione del patrimonio. Ecco, questi sono i punti da chiarire nella vicenda Baggina, ma ci sono gli altri punti da chiarire, ha detto bene Buonocore, andare a vedere anche tutta la gestione delle case comunali, tutta la gestione delle case del Policlinico di Milano, e come ha fatto Barbara Chabot, è giusto che la politica invochi la trasparenza su tutto, cioè quindi tutto deve venire fuori, non c'è nessuna macchina del fango, però è giusto vedere se ci sono dei privilegi e se c'è una mala gestione. E se c'è questo armadio LD, insomma. Beh, quello l'andiamo a cercare subito. Quello l'andiamo a cercare andiamo subito. A cercare. Da questo momento no, ma infatti, l'armadio è LD, oggetto di ricerca. Sarà un armadio che non la scamperà. Allora, io ringrazio tutti, devo veramente finire. Barbara Ciabò che è venuta in studio. Grazie. Con Luciano Buonocore, Gian Giacomo Schiavi, vice direttore del Corriere della Sera. Saluto in redazione Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi e Peter Bescapè in regia. Che dire, la linea va a Oscar Giannino. Noi ci troviamo domattina alle 7:20.